li si può leggere da diversi punti di vista. Dal punto di vista, insomma, la dialettica bellica che è scaturita tra Israele e Hezbollah all'indomani dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, e in questo senso evidentemente un'escalation, un salto di qualità di importanza capitale rispetto a quello che ha avuto luogo negli ultimi 10 mesi, perché comunque si tratta innanzitutto di un attacco cibernetico di dimensioni in assoluto mai viste, anche solo per letalità. In secondo luogo, perché ha colpito in un sol colpo centinaia di affiliati, perlomeno al partito. Non sappiamo quale sia stato il costo in termini di feriti e tutto il resto tra i soldati di prima linea, però sicuramente guardando anche solo agli ospedalizzati che insomma colpiti al di fuori delle linee di fronte che sono stati tradotti negli ospedali, stiamo parlando di feriti nell'ordine delle migliaia. Quindi sicuramente è un colpo militare tremendo che ha subito Hezbollah, è un colpo politico tremendo che ha subito Hezbollah, perché comunque ha palesato una vulnerabilità nei suoi apparati di sicurezza a vari livelli decisamente notevole. È un colpo morale molto forte nei confronti, certo, di Hezbollah, che si ritrova colpito in casa in maniera così devastante. Poi c'è la lettura appunto all'interno del partito, che in parte, no, si accavalla con quello che abbiamo detto poc'anzi rispetto alla dialettica militare. Poi c'è una lettura morale che sta venendo comunque completamente obnubilata dalla narrazione che si sta facendo, perlomeno in Italia, di questo attacco, nel senso che la narrazione dominante è quella, a mio avviso, molto riduzionista, di cyberattacco di dimensioni impensate, immaginate da parte dell'esercito israeliano o comunque del Mossad nei confronti di Hezbollah, che è una narrazione che obnubila un po' la reificazione viva, no, la sostanza di questo attacco, per il quale Israele ha comunque scientemente trasformato in pieno giorno centinaia di individui in maniera del tutto indistinta tra civili e militari, per quanto magari entrambi appartenenti al partito, in ordini umani fatti esplodere in pieno giorno. Ecco, viste le modalità, se avesse compiuto un attacco di questo tipo un'altra organizzazione, come dire, anche la stampa nostrana non avrebbe esitato a parlare di cyberterrorismo. Beh, ma anche se, intanto a parti inverse, ma anche se l'avesse fatto, cioè, immaginiamoci, non so, Putin con le dotazioni mobili dei soldati ucraini, indipendentemente dal fatto che fossero al fronte oppure in difesa. Diverse volte dal 7 ottobre a oggi Israele ha compiuto stragi di civili, spesso giustificando queste stragi con la presenza presunta, insomma, di alcuni esponenti di organizzazioni che considera terroriste. Questa è una modalità nuova. Possiamo dire che stiamo andando verso una guerra sporca? Io direi che stiamo andando verso una guerra ancora più sporca, perché non mi pare che il warfare applicato, cioè praticato perlomeno dall'8 ottobre, soprattutto sulla striscia di Gaza, in Cisgiordania, ma anche nello stesso Libano, sia stato pulito. Cioè, questo è l'ennesimo alzare un'asticella verso una soglia nuova, che a quanto pare sembra che si possa, no, tiracchiarsi all'infinito. Cioè, sì. Non è il primo atto sporco, è semplicemente una nuova soglia a rialzo che è stata marcata. Perché comunque ora il fronte libanese è molto meno mediatizzato, come anche legittimo che sia, rispetto a quello gazzawi in particolare. Ma comunque dall'8 ottobre la violazione israeliana anche di basics del diritto internazionale è pratica quotidiana. Dall'uso di fosforo bianco al targeting di edifici civili, soccorritori, giornalisti. Prima di ieri il bilancio dei morti civili in Libano per mano israeliana, senza ne tenere conto dei danni materiali, dei danni all'agricoltura e comunque dell'ecocidio compiuto con gli attacchi al fosforo, che sono costanti dall'8 ottobre, era di quasi 150 morti, un totale di 550, di cui restanti 400 miliziani. Insomma, ad Israele è consentito tutto. Evidentemente.